0 2 4 2 0 2 4 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 7 aprile 2012, bentornati a 2024, le 15:31 minuti, siamo in diretta anche oggi. Più tardi parleremo di startup con una serie di collegamenti che faremo anche via Skype con un ospite che sarà nel nostro studio. Io sono Enrico Pagliarini, oggi c'è Fabio Cantadori che si occupa della parte tecnica. Potete comunicare con noi via SMS, via email, via Facebook. Oggi abbiamo scelto queste modalità. Il nostro centralino è in vacanza per questo sabato di Pasqua. Però insomma ci sarà modo di interagire anche per fare domande ai nostri ospiti. Partiamo da una notizia della settimana che arriva dalla Corte di Cassazione, ma è un problema molto importante sul quale si dibatte da molto tempo. Quando vogliamo avere delle informazioni su una persona, che cosa facciamo spesso? Rudy, tu cosa fai spesso? Se vuoi avere delle informazioni su una persona, esatto, vai su Google e cerchi qualche cosa. Allora, che cosa succede se i primi risultati che ci appaiono sono relativi a notizie vecchie o non aggiornate, che è poi la stessa cosa? Allora, partendo da un caso di questo tipo, la Cassazione è intervenuta su una materia che si collega a quello che viene definito diritto all'oblio. Alessandro Galimberti, della redazione Norme e Tributi del Sole 24 Ore. Ma diciamo che l'altro ieri la Cassazione è intervenuta con una sentenza molto importante che secondo noi potrà avere anche degli effetti dirompenti nei prossimi anni per tutti i siti e per tutti gli editori che producono informazione. In sostanza la Cassazione, poi spieghiamo il contesto in cui è avvenuto, sostiene che i siti che producono informazione devono provvedere a un aggiornamento continuo, costante e preciso di tutte le notizie che vengono pubblicate relativamente alle persone. Quando parliamo di diritto all'oblio intendiamo dire che una persona che sia un nome su internet, ma in generale ha diritto a essere dimenticato, e se noi traduciamo questo su internet, il diritto ad essere dimenticato dovrebbe essere quello di veder cancellati tutti i propri, tutte le notizie, qualsiasi cosa, quando uno decide di scomparire dalla rete internet. Naturalmente internet è così grande, ma soprattutto così persistente, perché le cose rimangono per sempre online, che questo concetto è cambiato sicuramente nel corso degli anni. Ma su questo punto preciso, che cosa dice sostanzialmente la Cassazione? Non parla di cancellazione dei propri dati, delle notizie, giusto? No, non ne parla, anche perché nel caso specifico che la Cassazione affronta il caso è molto particolare, cioè riguarda un ex amministratore pubblico, un assessore del comune di Seregno, che nel 1993 venne arrestato per corruzione, per tangenti nell'ambito della prima Tangentopoli. Dopo, la notizia venne pubblicata all'epoca dai giornali cartacei e poi trasferita nell'archivio telematico, in questo caso del Corriere della Sera. Nei vari gradi di giudizio poi l'assessore viene assolto, ma di questa notizia non si trova traccia su internet. Nel momento in cui questo signore vuole tornare alla ribalta pubblica, nell'amministrazione pubblica, scopre di essere perseguitato su internet da questa notizia attraverso i motori di ricerca, cioè del suo arresto risalente a 20 anni prima, quasi 20 anni prima. Si rivolge al garante della privacy chiedendo che questa notizia venga rimossa perché non più attuale. Il garante della privacy dice che non ha diritto alla rimozione, perché quella notizia in quel momento storico era vera. Questo uomo si rivolge allora al Tribunale di Milano e chiede di cancellare questa decisione del garante della privacy. Anche il Tribunale di Milano gli dà torto, sostenendo che quella notizia nel 1993 era vera e quindi non esiste un diritto che ciò venga cancellata. In Cassazione cambia strategia la difesa. Dice magari non può essere se non può essere cancellata, esiste un obbligo di attualizzare questa informazione e quindi di completarla con dei dati successivi, dei successivi gradi di giudizio. Quindi sostanzialmente lui dice capisco quello che dice prima il garante della privacy, poi il Tribunale di Milano, ma io voglio che il risultato finale è che quando uno fa una ricerca su internet sappia la verità completa, non solo quel pezzetto. Esattamente. E la Cassazione arriva a dare ragione a questa istanza sostenendo che il compito di attualizzare la notizia spetta non alla rete in sé, non ai motori di ricerca che alla fine sono gli strumenti attraverso cui si viene a conoscenza delle notizie, ma il compito di attualizzare l'informazione è a carico dei siti sorgenti, cioè dei siti di informazione da cui era partita la notizia. Tecnicamente la Cassazione, che poi ha rimesso il processo al Tribunale di Milano che dovrà stabilire le modalità, dice la Cassazione: accanto alla notizia dell'epoca, del 1993 in questo caso, dovrà essere messo un banner, una sorta di bandierina che avvisa che quella notizia è nel tempo cambiata. Quello che era un arresto si è trasformato in una soluzione. Ora, evidentemente questa soluzione non può essere gradita a nessun editore, perché al di là del caso specifico, la Cassazione affronta solo questo caso, ma poi il principio che pone ha validità generale. Certo. E il principio cosa prevede? Che soprattutto in materia di cronaca giudiziaria, ma non solo in materia di cronaca giudiziaria, ogni sito dovrà provvedere, indipendentemente dalla volontà delle persone coinvolte, dovrà provvedere a fare una costante attualizzazione dei dati relativi a tutte le persone che vengono trattate in cronaca. Effettivamente, tu dici all'inizio, questo potrebbe avere un effetto devastante, perché uno si domanda, ma come, un conto è magari i grandi editori, ma anche sui grandi editori insomma abbiamo dei dubbi, che possano seguire per anni vicende che magari a volte, sapendo come va a finire la giustizia in Italia, si concludono dopo 10-15 anni, ma pensiamo anche ai tantissimi siti internet che nascono, che stanno nascendo in questi anni, che hanno anche poche persone a seguire le notizie. Non so come potranno fare, ma questo lo vedremo sicuramente nei prossimi anni. Il problema riguarda tutti, cioè tutti quelli che secondo questa sentenza possono essere considerati siti sorgente della notizia. Quindi se un sito, un editore, un blog dà una notizia relativa a una persona in un determinato contesto e ha un contenuto negativo questa informazione, se quella informazione nel tempo evolve in notizia positiva, diventa obbligo di tutti i gestori di siti attualizzare quell'informazione. Tra l'altro ci sono dei passaggi abbastanza divertenti per chi conosce un po' la materia della tecnologia della rete e degli aggregatori di notizie, perché secondo la Cassazione, per giustificare questa decisione, i giudici dicono che ognuno, alla luce della nuova disciplina sulla privacy che in Italia, come noto, è stata approvata nel 2003, ognuno avrebbe il diritto, non avrebbe, ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, e anche il diritto di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero può ingerirsi a riguardo e chiedere la cancellazione, la trasformazione, il blocco, la rettificazione. È chiaro che questa affermazione può avere un senso se riferita alla stampa classica, per esempio, o sì, agli archivi normali, ma se rapportata ai grandi aggregatori di notizie, che sono i motori di ricerca, che sono i social network, che notoriamente sono in grado di fare una profilazione completa e totale dell'individuo, ecco, un'affermazione di principio di questo tenore fa sorridere. Ed era Alessandro Galimberti dalla redazione Norme e Tributi del Sole 24 Ore, argomento molto interessante, molto dibattuto da chi si occupa di diritto, di leggi, ma mi sembrava insomma importante raccontarvi di questa sentenza della Corte di Cassazione di pochi giorni fa. L'autorità per le comunicazioni adotterà entro la fine del mandato dell'attuale vertice, fissato a metà maggio, il regolamento sul diritto d'autore sul web. Lo ha detto questa settimana il presidente Calabrò, ascoltato dalla commissione bicamerale sulla contraffazione e la pirateria. Calabrò ha detto che 4 commissari su 8 hanno chiesto di mettere all'ordine del giorno il regolamento e, visto che la richiesta viene da più di un terzo dei componenti del Consiglio, si è obbligati a procedere. Quanto al regolamento, Calabrò ha anticipato che, dopo un contraddittorio, l'autorità potrà decidere un oscuramento del contenuto di un sito, ma mai di un sito completo. È un'affermazione che andrà poi chiarita. Vedremo questo regolamento già contestatissimo, ma soprattutto viene contestato il fatto che un'authority che oramai a scadenza vada ad esprimersi su un tema così importante. Visto che è meglio pensare al futuro che al passato, prepararsi ad un futuro migliore, noi vi ricordiamo che c'è una campagna della quale abbiamo parlato la scorsa settimana, intitolata vogliamotrasparenza.it, che punta a far sì che i candidati alla prossima authority, al vertice dell'authority, quindi i commissari che verranno scelti, siano scelti sulla base di competenze e soprattutto che i loro nomi vengano diffusi prima che avvenga il voto e non venga fatto un voto carbonaro come è stato fatto nelle scorse edizioni. Adesso abbiamo altre notizie della settimana. Digital News. Wikipedia ha deciso di utilizzare OpenStreetMap per le mappe da inserire nella nuova applicazione per Android e iOS. OpenStreetMap è un progetto collaborativo per la creazione di mappe che possono essere utilizzate liberamente e alcuni lo definiscono la Wikipedia delle mappe. Wikipedia abbandonerà quindi Google Maps. Mediaset ha deciso di riorganizzare i canali del digitale terrestre e abbandonare i canali più uno, che in effetti hanno poco senso. Lo spazio che si libererà verrà utilizzato per trasmettere in alta definizione su almeno un canale. La novità dovrebbe diventare operativa tra maggio e giugno. Sentite questa, un gruppo di 6 minorenni originari del Sulcis e del Cagliaritano è stato processato a Cagliari per avere sottratto migliaia di numeri di carte di credito tra il 2006 e il 2007. Era stata la polizia postale di Cagliari a scoprire la truffa messa in piedi da questo gruppo di giovani hacker e ora il Tribunale dei minorenni di Cagliari ha deciso la messa in prova per i ragazzi, quindi non una condanna in altre strutture. Uno di questi, 6, per un anno dovrà insegnare ad usare il computer ai giovani della sua età. E speriamo che gli insegni le cose giuste, eh? A proposito di hacker, quelli di Anonymous hanno promesso guerra al governo niente proprio di quello cinese e dopo aver attaccato già oltre 300 siti governativi assicurano che l'azione continuerà per protestare contro la censura del web messa in atto dal governo di Pechino. Secondo un analista russo, circa 600.000 Mac sarebbero stati infettati da un Trojan, un virus informatico chiamato Flashback. La maggior parte del danno è stata fatta in Nord America. Apple ha comunque già rilasciato gli aggiornamenti che dovrebbero risolvere il problema. Bene, adesso ci fermiamo per un minuto, c'è la viabilità, poi parleremo di una ipotesi di scorporo della rete di Telecom Italia, un argomento che sembra per addetti ai lavori, in realtà non lo è, e poi anche di agenda digitale. 2024. Vi ricordo che in questo weekend di Pasqua, lunedì pomeriggio alle 17, abbiamo organizzato una puntata speciale di 2024 dedicata a smartphone e tablet, una chiacchierata anche con i nostri ascoltatori, i nostri esperti in studio, i nostri ascoltatori al telefono per le vostre domande e le vostre considerazioni, quindi lunedì pomeriggio ore 17. Adesso parliamo di una ipotesi di cui si è parlato questa settimana. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un documento riservato di Telecom Italia in cui vengono ipotizzati alcuni scenari in caso di scorporo e cessione parziale o totale della rete di accesso, il network di rame col quale arriva la DSL in milioni di case in tutta Italia. La notizia è interessante perché si inserisce in quel complicatissimo percorso che dovrebbe portare alla costruzione di uno o più network di prossima generazione in fibra ottica, la fibra che arriva nelle case di tutti gli italiani. Uno degli obiettivi di cui parla anche l'agenda digitale europea e di cui dovremmo occuparci anche noi in Italia. Attualmente sono stati annunciati 3 progetti per cominciare a costruire questo network. Quello di Telecom Italia, sicuramente il più vasto e il più capillare, il progetto di MetroWeb, di cui parleremo la prossima settimana, poi vi dico qualcosa sulla prossima settimana, e poi c'è un progetto dello Stato per il Sud Italia. Allora, naturalmente, un'ipotesi di scorporo della rete di Telecom potrebbe cambiare le carte in tavola, fare anche convergere questi progetti. Ma quali sono i motivi per cui riemerge questa ipotesi? Perché non è la prima volta che si parla di questa cosa. Daniele Lepido del Sole 24 Ore ha analizzato questo documento. Ma i motivi possono essere fondamentalmente due. Il primo è un motivo di natura in realtà più finanziaria, cioè per cercare di rientrare dal debito. Ricordiamo che il debito di Telecom Italia, che comunque è stato in parte abbattuto in questi anni, è ancora di circa 30 miliardi di euro. Da questa operazione Telecom potrebbe, se cedesse almeno una parte della rete, incassare 4 miliardi di euro. Quindi abbattere il debito. Dall'altro, comunque, utilizzare parte di questi soldi per costruire quella che si chiama NGN, cioè i Next Generation Networks, cioè la internet del futuro che arriva fino, anzi supera i 100 megabit per secondo di velocità. Quindi fibra ottica fino alle case. Esattamente, eccetera, eccetera. Fibra ottica fino alle case, perché il progetto iniziale di Telecom Italia per la NGN prevede che la fibra arrivi fino ai cosiddetti armadi telefonici, cioè quelli che sono nelle cantine delle case. O che vediamo anche per le strade. Esatto, eccetera, che per le strade, e non invece che arrivi direttamente nelle case degli utenti. Da quello che tu hai potuto capire, è effettivamente un'ipotesi solo allo studio o c'è qualche cosa di concreto, ci sono prospettive anche nel medio-breve periodo? In questo momento è sicuramente solo un'ipotesi allo studio, ma è un solo molto tra virgolette, perché almeno fino dopo il famoso piano Rovati, cioè la prima grande ipotesi di scorporo della rete di qualche anno fa, all'interno della società le parole scorporo e cessione erano un po' considerate dei tabù. È in qualche modo una notizia il fatto che in questo momento ci sia un qualche ragionamento su questo tema. Come ha chiarito il presidente esecutivo di Telecom Franco Bernabè e il giorno dopo l'amministratore delegato Marco Patuano, è un'analisi. È interessante, secondo noi, che ci sia un'analisi. Vorrei anche dire questa cosa. Ho trovato particolare e interessante la reazione di Asati, che è l'associazione dei piccoli azionisti di Telecom Italia, a questo documento. C'è di fatto un'apertura. Loro parlano di una cessione di open access, che è già la struttura, come dire, della rete aperta di Telecom, con la compartecipazione azionaria di altri attori importanti, come per esempio la Cassa Depositi e Prestiti. Ricordo appunto che la CDP di Franco Bassanini è uno di quei soggetti che molto spesso vengono tirati in ballo proprio per progetti infrastrutturali importanti come può essere l'NGN, e sicuramente la Cassa Depositi e Prestiti in un'eventuale ipotesi di realizzazione di questo progetto potrebbe avere qualcosa a che fare, potrebbe dire la sua. Vi dicevo che il percorso verso la costruzione di un network di nuova generazione è molto complesso, molto complicato. Continueremo a parlare di questo tema. La prossima settimana saranno con noi l'amministratore delegato di MetroWeb e quello di Interroot, e quindi lì chiariremo un po' di cose, faremo un po' di scenari. L'11 aprile, quindi fra pochi giorni, Confindustria Digitale organizzerà il primo Italian Digital Agenda Annual Forum. I motivi di questo appuntamento da Stefano Parisi, che è presidente di Confindustria Digitale. Le imprese dell'ICT hanno predisposto un programma per il governo di partnership tra industrie dell'ICT e il governo per far crescere l'economia digitale in Italia, convinti del fatto che l'agenda digitale, ossia una maggiore diffusione di internet nei servizi pubblici e privati, nelle attività per le famiglie, può essere veramente un volano di sviluppo importante già nei prossimi anni. E quindi quello che noi vogliamo è illustrare questo programma e quindi iniziare uno scambio anche di proposte e di azioni per l'implementazione di questa agenda digitale, e abbiamo come ospite Nili Kroes, che è la commissaria per l'agenda digitale europea. Dopo tanti mesi in cui il governo ha dovuto affrontare problemi di tasse, pensioni e mercato del lavoro, vorremmo in modo un po' più positivo pensare allo sviluppo in modo molto concreto con l'aiuto delle imprese. Voi pensate che questa sia più una sfida organizzativa, anche culturale, per cambiare la cultura delle persone, delle imprese, o tecnologica? No, dal punto di vista tecnologico la tecnologia ci aiuta, ormai la crescita delle tecnologie in questo senso offrono delle opportunità straordinarie che sono ancora molto poco sfruttate, molto poco utilizzate. Noi abbiamo una serie di problemi in Italia, rispetto agli altri paesi abbiamo una diffusione dell'uso di queste tecnologie sia nell'offerta di servizi che nella domanda di servizi da parte delle famiglie e delle imprese ancora tutto da sviluppare, siamo un po' indietro rispetto agli altri paesi. E questo, per certi versi, se uno vuole guardare il bicchiere mezzo pieno, è un'opportunità di crescita in più che abbiamo. Perché siamo indietro? Perché c'è un po' di resistenza nelle pubbliche amministrazioni a condividere i loro dati e le loro informazioni con altre amministrazioni, perché c'è un po' di resistenza all'uso delle tecnologie digitali nel rapporto tra amministrazioni e verso i cittadini e le imprese, ma questo è un problema anche nelle imprese private. Anche noi in Italia abbiamo le attività di home banking o di home assurance che sono indietro rispetto agli altri paesi europei, quindi noi vorremmo stimolare uno sforzo di tutti per rimuovere queste resistenze, sapendo che è una grande opportunità di crescita che può liberare l'Italia da tanti problemi di flessibilità, di trasparenza, di produttività che abbiamo. Quindi ci auguriamo che il governo, che ha messo già molta enfasi e molta spinta e molta determinatezza nel fare riforme importanti, oggi metta la stessa enfasi e la stessa determinatezza anche in questo, in modo tale che nel giro di pochi mesi si possono avere dei bei risultati in termini di crescita e di nuove opportunità occupazionali per tutti gli italiani. A proposito del governo, lei è fiducioso sulla capacità di implementare, anche di scrivere un'agenda digitale chiara e determinata? C'è chi dice che questa è una cabina di regia con una regia debole. Ma dipende, adesso è appena iniziata, io non vorrei criticare, vediamo un pochettino come si mette all'opera. Sicuramente il lavoro è importante, perché bisogna ripensare al modo con cui le pubbliche amministrazioni si ingegnerizzano, e quindi la stessa architettura delle pubbliche amministrazioni. Bisogna trovare risorse e aiutare le imprese a fare gli investimenti nella rete, che sono investimenti molto importanti. Bisogna anche pensare però alle grandi opportunità che i giovani possono esprimere con gli start-up, con le nuove imprese che possono nascere per applicazioni sul web. Bisogna ripensare ai modelli formativi per formare le persone non native digitali, perché possono accogliere queste tecnologie nella loro attività di lavoro e nella loro vita privata. Quindi c'è molto da fare, serve tempo. Io spero che questo governo dia la spinta giusta, perché ovviamente l'agenda digitale nell'Unione Europea arriva al 2015, anzi per certi parametri al 2020, quindi va oltre la vita di questo governo. Però se questo governo dà la spinta giusta, poiché stiamo parlando di una cosa positiva, di una cosa bella che piace, poter far crescere internet in Italia, credo che ci siano tutte le condizioni perché questo avvenga. Senta, le faccio una domanda sull'industria e in modo particolare sul sistema industriale italiano, pensando alle industrie che poi dovranno lavorare per digitalizzare la pubblica amministrazione, ma diciamo in generale il paese. Abbiamo, immagino, le competenze, sicuramente anche le tecnologie, o il rischio o lo scenario è quello di utilizzare tecnologie che vengono pensate, progettate in altri paesi e quindi con una piccola poi quota anche di capitali che poi se ne vanno al di là dei confini? Ma guardi, le tecnologie sono globali oggettivamente, io non vedo un tema di italianità. Noi sicuramente, dovendo far evolvere la domanda delle amministrazioni pubbliche, dobbiamo far evolvere anche le imprese. Oggi purtroppo, di fronte a una domanda molto parcellizzata, abbiamo anche una grande parcellizzazione della stessa struttura industriale nel nostro mondo dell'ICT. E quindi bisognerà avere aziende un po' più grandi, in grado di offrire servizi che occorrono. Insomma, noi abbiamo qualcosa che è intorno al 20-30% di aziende in più rispetto alla Germania o alla Francia, e questo ovviamente impatta in quella direzione. Però c'è una gran buona notizia, è che in Italia abbiamo un fermento di idee, di giovani che escono dalle università, dai politecnici, che hanno idee su come sviluppare nuovi servizi sul web, che credo che non abbia pari in Europa. Abbiamo una grande creatività, e questa creatività molto utile, se ben finalizzata, può portare in Italia grandi opportunità di sviluppo, di business, che poi potranno anche andare all'estero. È una frontiera nuova quella delle nuove tecnologie digitali, su cui effettivamente c'è ancora molto da dire, l'Italia può dire molto. Era Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale, per parlare anche di questo appuntamento dell'11 di aprile con Nili Crose a Roma. Diceva prima Parisi, abbiamo necessità anche di far diventare le nostre aziende più grandi. Certo, se poi queste aziende sono italiane, quelle grandi, meglio, piuttosto che, come dicevo prima, aziende di altri paesi che vendono in Italia e parte dei soldi finiscono in altri paesi. Ma del resto, purtroppo, su questo tema, sulla tecnologia, siamo spesso un importatore di tecnologia. Avremo modo di riparlarne anche tra poco, parleremo di startup. Vi ricordo che oggi potete raggiungerci via SMS e anche via Facebook oppure via email. Vi ricordo anche che il documento di cui abbiamo parlato poco fa, quello di Telecom Italia, riservato fino a qualche giorno fa, è disponibile sul sito internet del Sole 24 Ore, nel blog di Daniele Lepido, I Bastioni di Orione. Ci risentiamo dopo il GR. 2024. La seconda parte di 2024, vi ricordo che al termine di questa puntata sarà disponibile il file MP3, quindi il servizio podcast di Radio 24 vi offrirà la possibilità di scaricare il file della nostra trasmissione. Seconda parte, io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Fabio Cantadori oggi in regia. Saluto Dario Giudici che assieme ad altri soci ha fondato Siamo Soci, che è una piattaforma, la dico subito, di crowdsourcing, poi spieghiamo che cosa significa. E Dario Giudici è l'amministratore delegato, benvenuto. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Dunque, diciamo subito che cos'è crowdsourcing, o meglio il crowdfunding. Io forse ho sbagliato, ho detto crowdsourcing, che è una parola che mi girava in testa da un po' di tempo, invece qua stiamo parlando di crowdfunding. Sì, sono due termini in realtà legati fra loro. Crowdsourcing identifica tutto ciò che avviene unendo le forze della folla attraverso internet. Crowdfunding si applica nello specifico all'unire le forze per finanziare progetti. Questo è un po' il termine generico. E noi oggi parleremo di startup. Allora, stiamo facendo un percorso sia a Radio 24 che a 2024 parlando di agenda digitale, anche quello della creazione di un mercato, quindi anche l'agevolazione di chi finanzia le startup, è uno dei punti dell'agenda digitale europea e naturalmente italiana. È un tema di cui si parla molto. Poco fa Parisi diceva anche che ci sono buone notizie perché ci sono parecchie startup in Italia. Vi risulta? Il mercato esiste effettivamente? Il mercato esiste, ci risulta, e ci risulta altrettanto che ci sia un'attenzione crescente anche da parte delle istituzioni. Del resto in Italia c'è un problema di crescita, non ce lo possiamo nascondere. La mia sensazione è che sia opinione ormai condivisa che la crescita debba partire anche dal basso attraverso la creazione di nuove imprese. Dunque non abbiamo ancora detto nulla della piattaforma, perché da qua vogliamo partire. Crowdfunding, quindi finanziamento che arriva dalle persone che si mettono insieme e utilizzano questa piattaforma per finanziare le startup. Come funziona Siamo Soci? Sì, diciamo, per dirlo in parole il più semplice possibile, Siamo Soci è un sito internet che mette in contatto startup e aziende che abbiano progetti innovativi con potenziali investitori. Va bene, quindi forse per chiarire il concetto vale la pena di dire, fare un esempio spiegando che cosa hanno fatto le aziende che si sono già finanziate attraverso la piattaforma. Hanno caricato sul sito i loro progetti, li hanno pubblicati utilizzando una procedura guidata che li aiuta a comporre il set informativo. Una volta presentati sono diventati visibili al mondo degli potenziali investitori che hanno visto i progetti, li hanno analizzati, hanno deciso di manifestare un proprio interesse ad investire, ognuno per un certo ammontare. Una volta che l'ammontare complessivo è arrivato a coprire il fabbisogno dell'azienda, si è passati alla fase di chiusura, nella quale si sono fatte le firme sui contratti e c'è stato l'effettivo scambio di denaro a favore dell'azienda a fronte di quote societarie. Quindi i nuovi investitori diventano di fatto soci delle società a cui forniscono in molti casi non solo il capitale per crescere ma anche delle competenze. Questo è un po' uno degli scopi fondamentali del nostro sito, della nostra piattaforma, perché è verissimo quanto dice Parisi: l'Italia non manca di buone idee, non manca di persone brillanti che escono dalle strutture universitarie, dagli incubatori con dei progetti innovativi. Talvolta ciò che si fa fatica a trovare è la capacità però di trasformare questi progetti in aziende, quindi competenze anche, se vogliamo, manageriali. Poi non ci nascondiamo il fatto che l'azienda, qualsiasi azienda che parte per prosperare, ha bisogno di networking, ha bisogno di conoscenze del territorio, del business, e l'intervento di soci privati porta in molti casi anche questi anche elementi. Questo network che si può creare. Voi siete una startup, siete vivi da quanto tempo? Anche noi siamo una startup, siamo online da ottobre 2011, dopo un anno e mezzo abbondante di studio sì. E di analisi. In questi pochi mesi, devo dire, tanti passi sono stati fatti e siamo molto contenti di come. Quante sono le aziende, le startup che si sono iscritte e hanno presentato il proprio business plan? Allora, abbiamo attualmente circa 340 progetti registrati, di cui 40 già pubblicati. Questa differenza deriva dal fatto che il percorso fra la registrazione e la pubblicazione non è banale. Non da un punto di vista tecnico, perché la piattaforma rende l'inserimento dei progetti davvero molto semplice, più per il suo contenuto e valore anche formativo, nel senso che molti progetti, approcciando la piattaforma, si rendono conto per bene di qual è il set informativo necessario a presentare i loro progetti. Noi li supportiamo molto lungo questo processo e capiscono che hanno molto lavoro da fare. Mancano ancora dei tasselli, diciamo. Senti, visto che per le startup, dopo la domanda cosa fate, la seconda è qual è il vostro modello di business, cioè come fate soldi a fine del mese, come tirate fuori uno stipendio o più stipendi. E per voi qual è la risposta? Per noi la risposta è che abbiamo un modello di business piuttosto lineare. Quello che pensiamo è che, una volta dimostrato che siamo in grado di fare questo lavoro, il mercato sia disposto a riconoscerci una commissione sul capitale raccolto. Quindi quello che pensiamo è che le startup saranno disposte a pagare una piccola fee. Quindi sono le startup che pagano? Sono le startup. Non io che investo. Se sì. Io investo 10 euro, investo 10 euro. Esattamente. Fatto salvo che per quest'anno abbiamo deciso di autofinanziarci e quindi di fatto non applichiamo alcun modello di business. Penseremo a monetizzare nel momento in cui avremo sia la massa critica e sia avremo dimostrato sul campo che il modello funziona. Senti, io ho detto 10 euro, in realtà non stiamo parlando di pochi euro, perché quando parliamo di finanziamento alle startup, a molti verrà in mente il famoso venture capital che versa centinaia di migliaia, milioni di euro. Qua di che cifre stiamo parlando? Poi abbiamo oggi ospiti anche tre startup, quindi lo faremo dire anche loro, però certo. Ma diciamo, il gap vero che c'è in Italia, la carenza grossa sulla filiera del finanziamento alle startup è tutto quanto sta in ammontari di finanziamento che stanno tipicamente fra i 50-100 mila euro e il milione di euro, che è la fascia all'interno della quale intervengono tipicamente i cosiddetti business angel, cioè gli investitori privati come quelli che noi avviciniamo alla piattaforma. Però la potenza della rete e della tecnica che tu menzionavi prima, quella del crowdfunding, è proprio quella di permettere l'unione delle forze di più investitori che possono investire meno denaro ognuno, ma che nell'insieme permette di coprire il fabbisogno complessivo di questi round di finanziamento. L'iscrizione deve essere in esclusiva, cioè io posso rivolgermi alla piattaforma e contemporaneamente anche rivolgermi a venture capitalist o altri investitori? Assolutamente sì. Quello che noi consigliamo di fare è di portare gli investitori verso la piattaforma, perché questo genera un meccanismo virtuoso, come è già avvenuto nei casi che sono stati finanziati. Due di questi poi ce lo racconteranno, ma sono stati hanno reperito le risorse in cofinanziamento fra un fondo di venture capital e investitori privati. Laddove ci sono dei contatti già esistenti, il fatto di attrarli verso la piattaforma e che questi manifestino il proprio interesse all'investimento in maniera aperta crea un meccanismo di traino, per cui poi diventa più semplice la raccolta. Senti, le istituzioni sono consapevoli dell'importanza di questo, non tanto della vostra piattaforma, ma del mercato che dovrebbe nascere, quello che finanzia e che in qualche modo trasferisce anche una parte dei capitali che sono investiti in Italia, e sono moltissimi, perché sappiamo che l'Italia è un paese ricco, ci sono un sacco di famiglie benestanti che investono e hanno un sacco di capitali. Allora, dicevo, questo sistema che trasferisce parte degli investimenti verso le start-up crea, oltre che un valore, perché se la start-up va bene, insomma, questo è un buon ritorno sul capitale, ma anche un valore per il sistema paese. A vostro paese, parere, le istituzioni se ne stanno accorgendo o poco? Io penso che se ne stiano accorgendo e molto. Proprio in questi giorni si sta parlando in maniera viva del tema del crowdfunding e di queste nuove tecnologie per la raccolta di fondi per le startup, anche in seguito alla firma di 2 giorni fa di Obama negli Stati Uniti del cosiddetto Jobs Act, che sta per Jumpstart Our Business Startups, cioè in realtà è una serie di leggi. Facciamo fare un salto alle nostre startup, vuol dire più o meno. Esattamente. Si tratta di un insieme di leggi che regolamentano e favoriscono il crowdfunding. Queste nuove norme americane di fatto permettono alle imprese di offrire agli investitori quote di capitale acquistabili via internet praticamente da chiunque, quindi non solo da investitori professionali, e l'obiettivo finale è naturalmente quello di facilitare l'accesso ai capitali, stimolare la nascita di nuove imprese e l'occupazione, e sottolineo soprattutto quest'ultimo aspetto, se mi permetti Enrico, perché non penso sia da sottovalutare se si pensa che negli Stati Uniti, secondo uno studio del Center for Venture Research, nel 2010 sono stati fatti investimenti da parte di business angel per oltre 20 miliardi di dollari, e questo ha generato 370.000 nuovi posti di lavoro, che significa 6 per ogni investimento fatto dai business angel. Io penso che non siano solo gli Stati Uniti ad accorgersi di questo, la mia sensazione è che in Italia sia un concetto molto chiaro nelle teste dei politici, dei governanti oggi, e che cercheranno di favorire questi meccanismi il più possibile. Dunque, sono le 16:16 minuti, tra poco sentiremo Marco Porcaro, che ha fondato Geomercato, che è una delle startup che si è iscritta a questa piattaforma ed è stata finanziata. Gli chiederemo anche quanti soldi hanno raccolto. A tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, stiamo parlando di startup e di questa novità che è stata presentata da Dario Giudici, una piattaforma per contribuire al finanziamento delle startup. La piattaforma si chiama Siamo Soci, è molto facile da trovare, www.siamosoci.it. Saluto Marco Porcaro, che ha fondato Geomercato. Ciao Marco, benvenuto. Ciao Enrico, grazie per l'invito. Dunque, diciamo subito che cosa è e che cosa fa Geomercato, questa giovane startup. Sì, Geomercato è una piattaforma per la vendita di prodotti agricoli locali. Ha come obiettivo quello di mettere in contatto i produttori agricoli del territorio e il consumatore, abilitando quest'ultimo a fare la propria spesa direttamente in campagna, in cascina. Quindi si ha la possibilità tramite la piattaforma di acquistare prodotti come frutta, verdura, carne, formaggio dalle cascine del proprio territorio. Siete sostanzialmente una forma di, traduciamo, crowdsourcing per l'agricoltura, cioè un GAS, un gruppo di acquisto. Sì, una sorta di gruppo d'acquisto virtuale che ha come obiettivo quello appunto di valorizzare un modello di distribuzione trasparente, genuino, a favore di una filiera corta. Diciamo, per siete già operativi? Sì. Siamo partiti a gennaio 2011, siamo presenti su Milano e provincia e abbiamo circa 2.000 utenti iscritti e stiamo crescendo e sviluppando il servizio, migliorandolo sia da un punto di vista proprio funzionale, sia da un punto di vista di presenza internet e sul territorio. Quindi alla domanda, perché un agricoltore dovrebbe occuparsi di internet? Beh, ad esempio, Geomercato è uno dei motivi. Marco, quanto avete raccolto attraverso Siamo Soci? E soprattutto, perché vi siete rivolti a questa piattaforma e non siete andati a cercare un venture capital che vi desse un bel finanziamento credendo nella vostra idea? Bah, ci siamo rivolti alla piattaforma Siamo Soci, partendo dall'ultima tua domanda, perché è proprio quel livello di investimento di cui descriveva prima Dario durante la trasmissione, che va tra i 100 e un milione di euro, soprattutto in Italia, è molto difficile da raccogliere. Quindi nel nostro caso abbiamo trovato una parte di questi investimenti da parte di un venture capital, ma il resto siamo riusciti a trovarlo solo tramite la piattaforma Siamo Soci, che in maniera molto efficiente ed efficace ci ha permesso di chiudere questo round di finanziamento, che è stato di circa 500.000 euro. In totale avete raccolto quanto? Un milione? 500.000 euro. No, dico anche dal venture capital, cioè facendo la somma. No, in totale. Ah, in totale. Sì, sono sufficienti questi soldi? Perché uno, pensando ad un'azienda, 500.000 euro si consumano in pochissimo tempo. Infatti non sono mai sufficienti, sono sufficienti per fare una parte, diciamo, del percorso e per arrivare a sviluppare un'azienda fino a una fase sufficientemente ampia per arrivare poi a sviluppare il progetto. Ad esempio nel nostro caso il nostro obiettivo con questi soldi è di validare il modello su Milano, Lombardia, per poi svilupparlo a livello nazionale. In quella seconda fase ci serviranno altri soldi. Quanti siete? Beh, in questo momento che stiamo lavorando su Geomercato full time siamo circa 4 persone e abbiamo un piano di sviluppo nel corso del tempo che ci porterà a fine anno a diventare circa una decina e poi via via con le fasi successive ad aumentare. Il primo bilancio in attivo prevedete di chiuderlo quando? Magari l'avete già chiuso in attivo. Magari, assolutamente no. No, tra circa 2 anni e mezzo, 3. Volevo chiedere a Dario come... facciamo un'ipotesi, un investitore scopre Geomercato all'interno della piattaforma Siamo Soci e dice: ah, ma a me piace questa idea e voglio finanziarla. Ad esempio un agricoltore, perché gli agricoltori si lamentano, dicono che non hanno soldi, in realtà non tutti, ma molti sono ricchissimi. Allora, se uno viene un'idea di questo genere, come faccio? Qual è il percorso? Fa tutto online? Immagino di no. Una parte significativa viene fatta online, quindi di fatto in piattaforma trova già un approfondimento tale delle informazioni che permette di contattare l'azienda ed esprimere l'intenzione di investire già a ragion veduta. È logico che questo non prescinde dal fatto che un nuovo socio che entra in una qualsiasi azienda deve piacere e al socio devono piacere i manager e i fondatori, quindi da questo, una volta manifestato l'interesse, una volta chiuso il round e raccolti i partecipanti, segue una fase in cui c'è un incontro diretto e in cui si analizzano, diciamo, le clausole, i dettagli e si chiude l'operazione. Certo che il grande valore sta nel fatto che chi si siede al tavolo ha già fatto un importante processo di analisi e ha già sposato l'iniziativa, quindi se non si rompe qualcosa lungo il processo finale poi diventa molto più lineare. Senti, voi fate anche una sorta di consulenza? Faccio un esempio: se a me piace Geomercato ma non ci capisco nulla di mercato, di business, di aziende, posso venire da voi e dire: ma ragazzi, secondo voi questa è una roba seria, sono bravi questi ragazzi, ma soprattutto il business plan è fatto bene oppure no? Cioè, un po' come io vado in banca e mi fido di quello, mi dovrei fidare di quello che in banca mi dice: guarda, compra questo prodotto finanziario perché è affidabile, ha dei buoni ritorni. Allora, cominciamo con il dire che il presupposto della piattaforma è che gli investitori che si iscrivono sono persone che quantomeno hanno una capacità di leggere un business plan e capirne le linee guida fondamentali. Quello che noi facciamo è cercare di fare in modo che la trasparenza dell'informazione sia talmente elevata che davvero già attraverso la prima analisi si riesce a capire tutti i fondamenti e gli aspetti particolari. Il resto è naturalmente affidato ai contatti diretti che inevitabilmente ci devono essere e che cerchiamo di stimolare fra i potenziali investitori e i fondatori e i manager delle aziende, attraverso anche dei sistemi tecnologici all'interno della piattaforma, con la possibilità di scambiare messaggistica e tutto quello che serve, proprio per chiarire qualsiasi aspetto e qualsiasi dubbio prima di portare avanti l'investimento. Senti Marco, ci hai detto quanto hai raccolto, quanti soci però avete raccolto, insomma, oggi quanti soci avete? Oggi siamo la compagine tra fondatori e investitori privati, e, sono 9 sostanzialmente, di cui appunto 2 investitori istituzionali e il resto sono founder e business angels. Mm. Ecco, il fatto che con una piattaforma di questo genere si possa effettivamente raccogliere magari più di quanto si possa raccogliere con un singolo investitore, però anche il numero dei soci aumenta, questo crea dei problemi alla gestione dell'azienda. Spero di no, però no, assolutamente in questa fase qui è gestibile e chiaramente via via nello sviluppo va previsto una sorta di consolidamento per riuscire a rendere più efficace, diciamo, la governance dell'azienda, però in questo momento direi assolutamente no, anzi come diceva Dario costituiscono tutte queste persone dei validi contributi a supporto nello sviluppo della nostra attività, sia con supporto diretto, con consigli, con la creazione di opportunità che magari io in qualità di singolo imprenditore farei fatica ad andare a raccogliere direttamente, quindi sì, solo opportunità. Un'ultima cosa sulla vostra attività, gli agricoltori che sono insomma i vostri fornitori, come hanno preso questo, come vedono questa novità? Ma credo che sia uno strumento assolutamente unico per loro per raggiungere un mercato che in maniera efficiente, efficace, che farebbero fatica a raggiungere tutte le settimane. Geomercato, portando in maniera ottimizzata la spesa a casa degli utenti consumatori tutte le settimane, sgrava il produttore agricolo da una serie di attività come quello del marketing online, della costruzione di un sito internet, di tutto quello che riguarda la gestione, che so, del billing e poi non ultimo la logistica, cioè portare a casa la spesa fisicamente a casa delle persone è un onere di cui il produttore agricolo fa volentieri a meno, a tutto vantaggio dell'incremento dei suoi ricavi, perché ha un canale di vendita completamente nuovo da sfruttare. Bene Marco, ti ringrazio, saluta anche tutti i tuoi soci, quelli che lavorano con te, buon lavoro, a presto. Grazie, buongiorno. Era Marco Porcaro, che è fondatore di Geomercato, una delle novità che tra l'altro devo dire, ecco Dario, che si scoprono all'interno di Siamo Soci, perché oltre a scoprirle per poi diventare investitore, uno può scoprirle anche solo per poi diventare, che ne so, cliente o fornitore di una di queste società, perché si scoprono delle idee molto interessanti. Assolutamente vero, si creano questi meccanismi e devo dire che con i casi che abbiamo avuto oggi in piattaforma l'abbiamo visto più volte, quindi non solo l'interesse al puro investimento, ma in molti casi anche dei contatti che creano virtuosismo per lo sviluppo del business. Bene, adesso c'è la pubblicità, ci sentiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata molto interessante, perché penso sia un dovere anche della stampa di parlare di start-up, di questo mercato nascente, perché se abbiamo una speranza è proprio dai più giovani, dalle start-up, dal mondo digitale, che ci darà sicuramente soddisfazioni per i prossimi anni, anche perché noi siamo molto bravi in alcune cose, anche nella creazione di software e nelle idee in generale, alcune startup lo dimostrano. Allora, un nostro ascoltatore ci chiede via SMS se siete sotto vigilanza Consob per sollecitazione al risparmio, perché lo chiedo a Dario Giudice, che è uno dei fondatori e amministratore delegato della piattaforma Siamo Soci, perché in effetti questa può essere vista come una forma di investimento alternativa al bot, alle azioni, eccetera eccetera. Certo, è corretto quello che chiede l'ascoltatore. Noi siamo in dialogo costante con Consob, abbiamo già verificato con loro che l'assetto attuale della piattaforma è completamente compliant con le regole attuali. Quello che sul quale stiamo dialogando ulteriormente è per capire quali passi sia possibile fare in futuro per arrivare, diciamo, dall'assetto attuale, che è quello della creazione del contatto, a quella dell'effettiva chiusura di operazione all'interno della piattaforma, cosa che oggi non svolgiamo, che si svolge in maniera completamente diretta fuori dalla piattaforma una volta creato il contatto e in maniera diretta fra gli investitori e l'azienda. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui per adesso voi non ricavate nulla dalla piattaforma? Sì, diciamo le due cose non sono strettamente collegate, okay. Perché anche se lo facessimo l'importante è che non ha, diciamo, questo non crei i presupposti per essere in contrasto con le normative vigenti. L'aspetto del commissionale è più legato appunto a un fatto commerciale, però ecco, sono tutti elementi che stiamo valutando con grande attenzione insieme alle autorità. Senti, tu prima dicevi quando viene chiuso un deal, quindi uno degli affari va a buon porto e quindi vengono raccolti i capitali che la startup ha posto come obiettivo, uno non può montare sul treno dopo? L'azienda? Dico, un investitore può finanziare l'azienda finché rimane sulla piattaforma anche dopo la chiusura di questo deal a cui tu facevi riferimento prima? Beh, no, nel senso che ogni azienda fa il cosiddetto round di finanziamento. Chiusura del round, scusa. Sì, sì. Quindi non sono molto esperto di startup. No, ma è normale. quindi diciamo viene stabilito un capitale che si vuole andare a richiedere e l'operazione si conclude nel momento in cui c'è l'adesione e lo scambio di quote per denaro. Adesso sentiamo Antonio Perini quanti soldi ha raccolto invece Viamente, che è la società che lui ha fondato. Antonio, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Allora, qual è la chiusura del round, dove l'avevate messa come limite? Ma noi eravamo partiti con l'idea di raccogliere 300.000 euro ed è esattamente poi la cifra che siamo riusciti a raccogliere. La piattaforma ammette in effetti di definire delle forchette entro le quali muoversi, però noi diciamo che eravamo confidenti in un piano che era piuttosto solido e quindi l'abbiamo pubblicato così. Faccio a te la stessa domanda che facevo prima, ma non sono pochi per un'azienda? Perché in alcuni casi con 300.000 euro uno compra magari qualche macchinario oppure affitta uno spazio. Beh, certamente, e devi considerare che prima di 300.000 euro non hai neanche un euro, dunque effettivamente quello che dici sono molti, che succede è che cambia tanti tutto. Con un euro, certo. Cambia veramente tutto, nel senso che noi in particolare siamo una società internet e dunque le operazioni costano relativamente poco, diciamo che grossa parte di quell'investimento serve per finanziare lo sforzo di marketing e quindi rendere visibile l'azienda sul mercato internazionale e raccogliere poi nuovo fatturato che dimostri che il business plan effettivamente è robusto e poi che permette eventualmente di raccogliere i round successivi. Questa società che voi avete fondato, Viamente, che cosa fa? Ovviamente si occupa di ottimizzazione dei percorsi per piccole flotte di veicoli. Noi tutti sappiamo quanto sia comodo utilizzare un navigatore satellitare per raggiungere una certa destinazione, ma cosa succede se ne dobbiamo visitare 10, 20 o 50 di destinazioni? In quel caso ci chiediamo quale sia l'ordine migliore per visitarle, ovvero quale sia la sequenza ottimale per minimizzare il tempo di guida. Addirittura i nostri clienti hanno magari 5, 10 o 50 veicoli, quindi si chiedono anche come assegnare le destinazioni da visitare alle risorse disponibili. Ecco, noi risolviamo con degli algoritmi matematici questo problema logistico e lo facciamo in maniera tale da minimizzare il tempo totale di lavoro e quindi il tempo di guida e perciò i costi relativi al carburante e a tutti gli altri. Sì. Beh, visti i costi del carburante, diciamo, un sistema che ottimizza i percorsi è fondamentale oggi. Mi viene in mente che all'interno della piattaforma si possono anche trovare partner con cui collaborare. Ad esempio, non è che collaborate con Geomercato, visto che loro fanno la consegna delle merci. Sì, certamente, certamente. E in effetti è un'esigenza proprio in linea, diciamo, con la nostra offerta, perché tra i nostri clienti molti si occupano per esempio di consegne a domicilio, perciò hanno magari qualche decina di veicoli e li usano proprio per schedulare, per pianificare i giri in maniera ottima. Sì. Senza strumenti di questo genere è chiaro che i costi della logistica inciderebbero troppo sul servizio complessivo. Sarebbe bello pensare ad una piattaforma per i taxi basata sul vostro software. Cioè, e infatti esiste, è sicuramente un'industria sulla quale stiamo lavorando. Diciamo che esiste veramente una vasta varietà di applicazioni che utilizzano i nostri software. Per dire, ci sono aziende che fanno manutenzioni, installazioni, ispezioni, oppure chi fa invece semplicemente consegna o pick up, quindi raccolta magari di rifiuti o quant'altro. È un mercato veramente vasto e l'obiettivo in questo caso è essere i più flessibili possibili e quindi adattarsi alle varie applicazioni. Senti, voi perché vi siete rivolti a Siamo Soci? Lo avete fatto dopo aver bussato alla porta di molti venture capital? Com'è andata? Sì, all'inizio non c'era un criterio di discrimine tra una scelta di un tipo o una scelta di un altro. Diciamo che l'applicazione di Siamo Soci ci ha dato un framework entro il quale formalizzare un business plan che è diventato all'improvviso comprensibile, direi quasi a noi stessi, perché il processo di applicazione richiede ovviamente uno sforzo importante, perché è con quello che si concorre nel guadagnarsi l'attenzione dei potenziali investitori, però è anche il modo per fare un po' mente locale sugli indici che ti vengono richiesti, sugli argomenti che bisogna esprimere in maniera che siano più comprensibili possibili, e quindi è stata utile non solo poi per effettivamente trovare il finanziamento e chiudere il deal, ma anche e soprattutto per formalizzare un po' un processo che era più che altro nei nostri sogni e che invece poi è diventato un business plan reale. Senti Dario, abbiamo detto che questa è una piattaforma dedicata alle startup, quindi alle giovani aziende che stanno nascendo. Un ascoltatore ci chiede, se adesso recupero l'SMS, eccolo qua, se è possibile per un'azienda già affermata raccogliere investitori per un ampliamento. Quindi magari uno decide di crescere e va sulla piattaforma. Lo può fare oppure no? Lo può fare, noi non abbiamo una particolare preclusione da questo punto di vista. Quello che cerchiamo di favorire è lo sviluppo di tutto ciò che ha un contenuto innovativo, quindi l'azienda anche ben stabilita nel corso degli anni, se ha dei nuovi progetti di espansione, ma ripeto, meglio se con un contenuto di innovazione rispetto alla propria attività tradizionale, può finanziarlo attraverso la piattaforma con la forma del cosiddetto spin-off aziendale, quindi separare quell'attività con una società a parte e finanziarla. Sì, fare una nuova azienda, insomma. Voi che tipo di controlli fate sulle aziende che si rivolgono alla piattaforma? Allora, noi innanzitutto facciamo un controllo di tipo formale, più che diciamo un controllo diretto da parte nostra, quello che per noi è importante è mettere le informazioni a disposizione degli investitori, perché naturalmente sono loro i primi a dover essere anche protetti nel limite possibile attraverso l'informativa. Quindi utilizziamo informazioni pubbliche che ci vengono forniti da un partner che si chiama Infonet, che è collegato con Camere di Commercio e Centrale Rischi. Mettiamo a nostre spese, a disposizione degli investitori, una visura molto completa sia dei dati camerali sia di eventuali pregiudizievoli in centrale rischi, in modo che l'investitore abbia una visione immediata di tutto ciò che è disponibile a livello di informativa pubblica. Chiarissimo. Torniamo da Antonio Perini. Antonio, voi prevedete di andare inutile, diciamo così, stavo per dire diventare profitable, come si dice in genere, ma poi gli ascoltatori, alcuni si lamentano che parliamo troppo in inglese. Quando diventate? Noi abbiamo un piano che con un nuovo round che intendiamo cominciare a raccogliere, penso alla fine dell'estate, che ci porterà alla profittabilità nel giro di un paio d'anni, 2 anni e mezzo, giù di lì. In realtà dipende molto, è un esercizio molto finanziario, nel senso che dipende molto da quanti soldi ci si mettono dentro, no? Per accelerare la crescita, o viceversa, uno potrebbe muoversi più prudentemente per aumentare il numero di funzionalità supportate, il numero di mercati raggiungibili e poi crescere più avanti. Il gioco della profittabilità dunque dipende molto dalla capacità dell'investitore a finanziare un piano o un altro. Quante persone lavorano a Viamente? Noi in questo momento siamo in quattro interni, diciamo full time, e più abbiamo 2 collaboratori esterni che quindi lavorano con noi a tempo parziale. Non esistono dei software analoghi su altri mercati di altri produttori? Sì che esistono, giusto? Esiste, sì, la routing optimization, a proposito di inglese, è un'industria in realtà che ha qualche decennio. Quello che siamo riusciti a fare noi è di impacchettarla e di erogarla via internet. Ecco perché riusciamo a raggiungere quelle piccole imprese che tipicamente non hanno né il budget né la capacità né la struttura per acquistare un grosso pacchetto software che tipicamente poi richiede anche non solo un processo di installazione ma anche del training, e dunque insomma sono progetti aziendali molto grossi. Il nostro software viene erogato attraverso un browser qualsiasi, come quello che si usa per controllare le email, per intenderci, ed è basato su Google Maps ed è studiato in maniera tale da essere particolarmente intuitivo e diciamo user friendly. In questo modo riusciamo a raggiungere anche piccole aziende che tipicamente non avrebbero non sarebbero riuscite mai a usare un tool simile. A questo punto vorrei farti una domanda Google Maps e un altro sistema che abbiamo citato poco fa su con le nostre notizie, cioè OpenStreetMap, ma questa cosa la rimandiamo ad un'altra puntata, magari insomma ci incontreremo in uno studio a Radio 24 per parlare di routing, così mettiamo sul piatto altri temi. Volentieri. Antonio, grazie molto per essere stato con noi, a presto. Grazie a te Enrico, grazie a tutti. Era Antonio Perini, fondatore di Viamente. Dario, ci sono i capitali in Italia? Ci sono di sicuro i capitali in Italia, però ci sono persone disponibili a finanziare startup giovani? Sappiamo che insomma che quando si finanzia una startup il rischio è molto elevato. Certo, le persone... Allora, io distinguerei fra quello che è il panorama degli investitori attuali, che già ci sono e già si sono in qualche modo manifestati sul mercato, e gli investitori potenziali, che è una differenza importante, perché se noi prendiamo per esempio l'ultimo sondaggio di IBAN, che è l'Associazione Italiana dei Business Angels, esce un quadro già tutto sommato confortante su quelli che sono gli investitori attuali. Nel 2010 sono stati analizzati 1362 progetti, di cui 229 finanziati, per un totale di circa 33 milioni di euro investiti, ma qui parliamo di soggetti che sono tutto sommato dei professional, dei professionisti dell'investimento in angel. C'è un sondaggio di ISPO per i giovani di Confindustria che è stato presentato proprio il weekend scorso a Cortina nel corso di un convegno promosso dai giovani imprenditori di Confindustria, che ci dà dei dati davvero molto interessanti, perché ne esce che le imprese italiane che oggi investono in startup sono il 16%, quindi una percentuale già... Cioè, quindi altre aziende che investono in giovani aziende. Esattamente. E soprattutto ci danno dei dati ancora più confortanti per quel che riguarda la propensione, cioè le aziende hanno manifestato chiaramente questo: se l'idea è interessante e ci sono tutti i presupposti, un'azienda su due finanzierebbe startup. Però ci dicono anche che di queste la metà lo farebbe solo in associazione con altri imprenditori. Ora, se noi contiamo che in Italia ci sono circa 4 milioni di imprese, capite che i numeri sono interessanti, ma anche il fatto che gli imprenditori sono disponibili a fare questo, preferiscono farlo aiutandosi l'uno con l'altro. Ecco che una piattaforma come la nostra nasce proprio per agevolare questo tipo di collaborazione. Come dire, se ci stai tu, ci sto anch'io. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Le 16:47 minuti, questa è l'ultima parte di 2024. Vi ricordo che lunedì pomeriggio alle 17 stiamo organizzando una puntata speciale di 2024. Normalmente noi andiamo in onda il sabato nel pomeriggio tra le 15:30 e le 17, invece in quel giorno di rientri da questo fine settimana, abbiamo organizzato una puntata dedicata ai prodotti di cui si parla più spesso, ovvero smartphone e tablet, prodotti sui quali poi nascono e stanno ancora nascendo molte aziende innovative, molte start-up. Marco Fanelli ha fondato Rocket. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Dunque Marco, che cos'è Rocket? Dunque, Rocket è un marchio di prodotti che realizza prodotti nel settore dei complementi d'arredo e degli oggetti regalo. Questi prodotti sono un po' particolari perché sono ispirati al rock and roll. Ah, ecco perché vi chiamate Rocket. Esatto. Senti, voi vi siete... Devo dire, per precisare, che non sono solo io, ma c'è anche il mio socio, che è Luca Bregoli, che diciamo ha lanciato il marchio insieme a me. Sì. Senti, voi vi siete rivolti a Siamo Soci per quale motivo? Per raccogliere soldi, insomma, qual è il vostro obiettivo e quanto avete raccolto? Dunque, noi abbiamo fatto un primo round con Siamo Soci di 100.000 euro, che diciamo dovrebbe essere la premessa per poi raccogliere un secondo round più consistente, che dovrebbe essere nell'ordine dei 300-400.000 euro. Questo primo round ci serve sostanzialmente per validare gli obiettivi che ci siamo dati nell'ambito del business plan che abbiamo presentato, e quindi per diciamo raggiungere alcuni obiettivi preliminari per diminuire il rischio, appunto, dal punto di vista dell'investitore a investire in un'iniziativa così. Fino adesso questi soldi sono stati erogati da un singolo investitore o più investitori? No, dunque, innanzitutto non sono ancora stati erogati. Ah, ve li hanno promessi. Però diciamo la cosa si sta chiudendo proprio in questi giorni, perciò diciamo la diamo quasi per conclusa. Dunque, com'era la domanda, che non mi ricordo? No, la domanda era se c'era un investitore solo o più investitori. Ah, ecco, ci sono molti investitori, nel senso che sono, anche per scelta nostra, sei soci e sei advisor, sono persone che ci dovrebbero dare una mano sia nello sviluppo del business, quindi sviluppo commerciale e network, sia anche nel supportarci nelle decisioni strategiche dell'azienda che servono. Sì. Questa cosa ci serve soprattutto in questa prima fase. Senti Dario, abbiamo sentito l'esperienza di tre aziende, Geomercato ovviamente e Rocket, e abbiamo parlato, mi scuso se insisto su questo punto, però di sostanzialmente pochi soldi. Poi giustamente prima Perini diceva, prima avevamo nemmeno un euro, 300.000 euro sono un sacco di soldi, però è vero che se uno fa, che ne so, una gelateria, forse non gli bastano 300.000 euro. Qua è vero, stiamo parlando di cose un po' diverse. Allora, innanzitutto, la piattaforma è una piattaforma che serve sostanzialmente per collegare aziende molto snelle, molto leggere, quindi i capitali da raccogliere sono pochi, o puntate anche, oppure magari non ce l'avete presentate in questa fase, anche a raccogliere molti più capitali, cioè la piattaforma giusta, o il milione, i milioni di euro si raccolgono in altri ambiti? Perché uno potrebbe anche aver bisogno, che ne so, una startup in biotecnologie, di avere laboratori molto costosi. Certo, questo dipende naturalmente dai singoli progetti. Ci sono progetti che sono più, per usare un altro inglesismo, capital intensive, quindi richiedono maggiori investimenti, altri che riescono a partire e a portare già dei primi risultati con meno capitali. La piattaforma di per sé non preclude il fatto di poter essere utilizzata anche per richieste più importanti. È, diciamo, tipicamente il segmento in cui intervengono gli angel privati, e anche la parte, se vogliamo, un po' più rischiosa, la fase un po' più rischiosa di queste aziende, perché è la fase di elevata crescita, ma in cui si chiedono meno capitali, con valutazioni però anche più contenute, che permette di acquisire delle quote che un domani, se quella società cresce di molto, possono essere significative anche per l'investitore. Quindi ti dico, non c'è una preclusione da parte nostra, però è anche vero che le operazioni molto più grandi in termini di richiesta di capitale, quindi che superano i 2-3 milioni di euro, trovano non soltanto in noi dei potenziali partner, ma anche un po' di più nel mondo istituzionale dei fondi di venture capital o private. Senti, all'opposto, uno può investire anche poche migliaia di euro? Sì. O non ha senso investire pochi migliaia di euro in Rocket, magari dopo lo chiediamo a Fanelli. Il senso ce l'ha nel momento in cui è funzione di quanto l'azienda decide di chiedere, e anche di quanto decide di chiedere ogni singolo investitore, perché sono due cose che non possono essere slegate. Mi spiego: se un progetto ha bisogno di 100.000 euro, può chiedere ragionevolmente un minimo di investimento per ogni investitore, diciamo di 10.000 euro, perché per evitare, diciamo, un'eccessiva parcellizzazione della compagine sociale. Quello che noi facciamo è di lasciare grande libertà alla startup da questo punto di vista. A livello di piattaforma imponiamo solo un investimento minimo per investitore di 5.000 euro. Ricordo che quando parlo di investimento minimo mi riferisco sempre a una manifestazione di interesse all'investimento. Dopodiché va tutto concluso, certo. Però ogni startup deve poter decidere in base a qual è il capitale che lui richiede e quanti soci potenzialmente vuol far entrare, come regolarsi. Marco Fanelli, dunque, voi pensate di diventare un'azienda che genera utili quando? Dunque, noi abbiamo fatto un business plan che prevede di arrivare all'utile nel 2014. Questo sostanzialmente perché il piano si basa sull'ampliamento della rete commerciale e sull'ampliamento della gamma dei prodotti, che vuol dire grossi investimenti nella fase iniziale. Quindi sostanzialmente è questo. Tornando invece a quello che dicevate prima, io volevo aggiungere sul numero degli investitori il fatto che a noi in particolare è stato utile avere più investitori coinvolti proprio per il network che loro possono apportare diciamo nella fase iniziale dello sviluppo di un'azienda. Sì, per quello che diceva Dario, cioè che una piattaforma di questo genere, ma in generale poi anche il mondo delle startup aiuta a entrare in contatto con persone che ci supportino. Io ringrazio i nostri ospiti, Marco Fanelli, fondatore di Rocket, assieme a, ricordalo tu, il tuo socio, così... Luca Bregoli. Luca Bregoli, benissimo. In bocca al lupo, ragazzi. Grazie mille. E grazie anche a Dario Giudici, che anche tu dovresti fare la lista di tutti i cofondatori di Siamo Soci, ma sono troppi. È lunga, però... Quanti siete? Siamo 9 soci. Quello che possiamo dire è che metà della compagine sociale viene da esperienze del mondo finanziario, l'altra metà da esperienze del mondo web, esperienze di successo, e quindi ci aiutano molto. Bene, grazie a Dario Giudici, a presto, buon lavoro, ciao. Grazie a voi. E grazie anche a Fabio Cantadori, che si è occupato oggi della parte tecnica. Io sono Enrico Pagliarini. Allora, vi ricordo che torniamo in onda lunedì alle 17 e vi ricordo anche che tra poco questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Troverete tutto sul nostro sito internet www.radio24.it. La nostra email è 2024@radio24.it. Se volete continuare a chiacchierare possiamo farlo su Facebook oppure anche su Twitter, potete seguirmi cercando Enrico Pagliarini. Appuntamento a lunedì oppure con il classico appuntamento di 2024 sabato prossimo 15:30. 2024.